sera per andare a scaricare di nuovo. Stasera? Cappa di Rosmer, ma andiamo ai giochi stanotte. Sì. Allora sei diventato un milionario. Thank you. fuori frequenza, Mario, c'è dati 27.015.00. Sì, fuori frequenza, K. No. Non sei Mario, K. E chi sono? Tu sei... a mettere questo palo dell'antenna, che c'è l'antenna che tocca le radiali nel tetto. Approfitta delle belle giornate, K2! Ci usi, ho provato due, e questo qui lo uso qui. Ma lasciate, cursore del McKean, come ce l'hai? Davide. Ciao, ciao, alle prossime.